E allora sono le 12:42, dunque ritorniamo in diretta dagli 87.900, parliamo di lavoro e abbiamo al telefono con noi Claudio Gagliano, RSU della Beltrame, Fonderie Beltrame, un gruppo che ha insomma interessi dislocati in diversi centri in Italia, che però è in crisi da tempo e chiaramente insomma la minaccia del posto di lavoro è quella che preoccupa di più chiaramente gli operai degli stabilimenti Beltrame. Allora intanto buongiorno Claudio. Buongiorno, ciao a tutti. Allora, innanzitutto volevo chiederti, insomma, questa situazione non è proprio nuova, cioè parte anche da un po' di tempo fa, cioè già l'anno scorso c'era insomma nell'aria l'ipotesi appunto degli esuberi, dei licenziamenti. Devo dire che però allora comunque si faceva ancora riferimento alla possibilità di piani industriali, di riorganizzazioni aziendali, seppur con grandi sacrifici. Cos'è cambiato da allora, Claudio? Ma è cambiato semplicemente che appunto noi siamo in crisi come stabilimento dall'inizio della crisi del 2008, l'azienda ha sempre cercato, almeno ha sempre premesso che lei era interessata a non chiudere nessun tipo di stabilimento. Poi è cambiato qualcosa nell'organigramma aziendale, a quanto parlo, nelle idee dell'azienda, in quanto ha chiuso due stabilimenti piccoli, uno in provincia di Udine, uno in Piemonte, San Giorgio di Nogaro e Villa d'Ossola, Val d'Ossola. È cambiato perché a quanto pare il 2 agosto di quest'anno i colleghi di un'azienda marghera avevano un incontro all'Unione Industriale dove pensavano seriamente di ottenere ancora un anno di cassa integrazione straordinaria grazie a determinati investimenti, in quanto l'azienda si era impegnata 2 anni fa a fare un investimento di 10 milioni di euro. Nel primo anno ne ha stanziato all'incirca un paio e per avere il secondo anno doveva stanziare gli altri 8. Si è presentata quel giorno all'Unione Industriale dicendo che sicuramente non investiva più e sicuramente c'era un'apertura, una procedura di mobilità o di licenziamenti verso i 119 dipendenti di quello stabilimento. Questo per quanto riguarda il Veneto, ricordo che c'è la casa madre a Vicenza, dove a Vicenza hanno dichiarato qualcosa come 23 esuberi negli impiegati, quindi anche lì 23 probabilmente licenziamenti. Hanno chiuso, come ripeto, 2 stabilimenti, ci hanno ancora uno stabilimento in Toscana dove c'è un discorso aperto con la regione, si incontreranno nei prossimi giorni in regione per vedere la possibilità di mandare avanti un piano industriale con quello stabilimento, ma vedendo come si sta muovendo la possibilità che si trovi un accordo su quello stabilimento pensiamo che sia veramente poca. Per quanto riguarda lo stabilimento dove lavoro io, abbiamo un reparto acciaieria con 120 dipendenti all'incirca che è fermo da giugno, dovrebbe secondo quello che ci dicono ripartire a gennaio. A gennaio secondo molti non ripartirà più, quindi è cambiato tante cose nell'ultimo anno, da una politica di non chiusura degli stabilimenti a una politica invece di chiusura o comunque di dimensionamento del personale in altri. Allora senti, a questo insomma come è stato risposto? Cioè il fatto che comunque siano diversi gli stabilimenti in procinto di chiudere i battenti, c'è una risposta di generalizzata insomma? Ma a dire la verità fino a qualche giorno fa si rispondeva territorialmente, no? Quindi le iniziative di Marghera erano portate avanti dai dipendenti di Marghera, quelli di San Didero erano portate avanti da San Piero e quelli di Valdarno, così per tutti gli stabilimenti. Ora si è entrata nell'ottica l'idea di fare anche noi come operaio, come RSU, un discorso generalizzato di gruppo, quindi quello che succede a Marghera sicuramente è un problema mio di San Didero o comunque del collega di Valdarno o del collega di Vicenza, quindi si fa un discorso di gruppo, tant'è vero che oggi su un'iniziativa partita da Marghera e appoggiata da alcuni RSU di San Didero ci siamo incontrati davanti all'azienda Vicenza con un blocco, un presidio durata all'incirca 4 ore, con uno sciopero dichiarato in tutti gli stabilimenti italiani di 2 ore a turno, e quindi ora è cambiata anche la risposta di noi operai, di noi RSU, quindi non è più una cosa di territoriale, ma stiamo cercando di far diventare una cosa di gruppo, e abbiamo richiesto all'azienda un incontro all'Unione Industriale di Vicenza come RSU di gruppo, e l'azienda a quanto pare ce l'ha concesso entro la prima settimana di ottobre per andare appunto a discutere i problemi soprattutto dei stabilimenti più a rischio tipo Marghera e Valdarno, e ci dovranno comunicare la data esatta entro i prossimi giorni. Allora Claudio, so che vicino a te c'è anche il delegato RSU di Marghera, che adesso mi passerai, però prima volevo chiedere ancora a te, cioè ufficialmente diciamo, qual è lo stato insomma del gruppo Beltrame, e magari invece ufficiosamente quello che sapete voi insomma sulle cause di questo processo di dismissione? Ma ufficialmente il gruppo dice che la crisi ha portato problemi seri di liquidità, che effettivamente c'è una crisi che dura da anni e loro non riescono più a far fronte a determinate perdite, milioni di perdite dicono, al mese, dovuto appunto a un calo di produttività, e che il gruppo strutturato come era stato strutturato fino a 4-5 anni fa, prima della crisi, ora non può più essere strutturato così, in quanto c'è un volume affari altamente ridotto, un volume di vendita altamente ridotto, che sicuramente la struttura di qualche mese fa, qualche anno fa, non è più necessaria, oppure è fin troppo grossa per i volumi d'affari che hanno. Questa è la spiegazione ufficiale che ci dà l'azienda. In via ufficiosa, a me risulta, poi scenderà in particolare il collega di Marghera, a me risulta, perché io sono stato a Marghera ieri a visitare quello stabilimento, a me risulta che sicuramente non hanno stanziato nessun soldo negli ultimi periodi per quello stabilimento, quindi non ci sono stati investimenti reali negli ultimi anni, poi il collega sarà più preciso. E per quanto riguarda lo stabilimento di San Guidero, ci dovrebbero essere dei investimenti che ci garantiscono ancora 6 mesi straordinaria. Poi volevo anche premettere che noi ad aprile ci finisce una cassa integrazione straordinaria, un biennio, e da aprile dovremo essere ancora coperti qualche mese, quindi fino all'incirca settembre-ottobre, da un'ordinaria. Poi anche lì si aprirà per noi di San Guidero un problema reale sul fatto quale ammortizzatore sociale possiamo usare, in quanto abbiamo un'ordinaria ai termini, una straordinaria che sta finendo ad aprile, quindi il problema anche per noi sarà questo qua. Quindi a livello ufficiale l'azienda ha detto determinate cose, a livello ufficioso alcune le ha mantenute, altre non le ha mantenute a quanto pare. Eh già. Senti, allora come vogliamo fare? Mi passi il compagno di Marghera, Claudio? Io ti passo Giorgio, che è il collega di Marghera, e ora sarà più esaudiente lì. Io ti saluto, tra l'altro, Luciano, è stato un piacere. Ma è stato il nostro, grazie mille. Ti passo Giorgio. Grazie Claudio. Pronto, ciao. Pronto, ciao, buongiorno. Allora, dunque... Parlo anche a nome del mio collega della FIAM Cappelletti. Sì. In quanto è presente qua in macchina, sono Giorgio della FIAM di Venezia, la FIAM CISL. Allora, noi come stabilimento siamo stati presi in giro praticamente dalla famiglia Beltrame, perché in tutti questi anni ci hanno fatto solo promesse mantenute ma non mantenute, nel senso che avevano promesso gli ultimi di fare un investimento di 10 milioni, ma in realtà non ne ha fatto neanche uno. Ci hanno lanciato la procedura il 2 di agosto, ci hanno lanciato le procedure di mobilità. Ma stiamo risalendo alla storia della famiglia Beltrame, che ha comprato il sito di Marghera nel 1909 ad oggi non ha investito un centesimo. Quindi siamo su una situazione veramente disperata. I ragazzi, i miei colleghi, veramente stanno facendo un presidio giorno e notte, siamo là, non solo loro, anch'io, siamo là giorno e notte che facciamo questo presidio permanente, non facciamo entrare nessuno, non esce niente. Oggi però la proprietà ci ha dato l'ennesima stoccata, ci ha detto che la chiusura del sito di Marghera è irreversibile. Ci hanno fatto un tavolo anche Profeto, dove ci siamo già stati, il 24, 25, 26 di settembre, però sembra che la loro decisione è quella di non tornare indietro. Noi stiamo facendo di tutto per mettere i bastoni in mezzo alle ruote. Siccome sappiamo che noi hanno un'altra società attaccata a noi che si chiama Marghera Portuale, che fanno uso di una banchina che alimenta lo stabilimento di Vicenza, noi abbiamo bloccato quella banchina qui. Noi con le istituzioni locali, il comune e la provincia, tenteremo di revocarvi quella concessione di quella banchina che hanno firmato da 25 anni a poco tempo, perché quello è l'unico modo che abbiamo noi per mettergli un bastone in mezzo alle ruote, ripeto. Però c'è una cosa che a me personalmente mi è sempre stata sullo stomaco, quando il dottor Valente, sorso umano del gruppo, mi viene a dire che la proprietà Beltrame ha messo il cuore oltre ostacolo sullo stabilimento di Marghera, senza spendere un centesimo, quindi il cuore oltre ostacolo l'ha messo neanche un po'. Già. Quindi siamo qua, stiamo lottando, abbiamo anche i colleghi di San Didero, siamo una grandissima solidarietà, sono stati da noi, siamo in contatto con gli altri stabilimenti. La scoperta che facciamo tramite internet su vari siti, scopriamo che Beltrame investe soldi però all'estero, perché in Francia hanno investito su un stabilimento a Tarnos 48 milioni di euro. Quindi sappiamo che delocalizzano da tante altre parti, tipo in Romania, e noi però l'Italia è casa mia, questa è la battuta che faceva il mio collega, ecco la rima. Sì, comunque noi siamo qua. Senti Giorgio, a parte il fatto che corre subito alla mente il parallelo, insomma, con la situazione che forse fortunatamente in queste settimane è ritornata al centro dei riflettori, cioè quella di Taranto, e alla fine non si smentiscono mai, sono davvero, insomma, della stessa fattispecie, si può dire, i padroni, nel senso che no, si vuole spremere finché lo si può fare, senza mai cacciare una lira, al massimo, insomma, si ristruttura con i soldi pubblici. È l'area dove lavoriamo noi, capisci? Perché è un'area molto appetibile, ma loro ce l'hanno lavorato con le speculazioni, hanno spremuto questa azienda come limone, e ad oggi i risultati sono questi, perché lo stabilimento è del 1931 e lì non c'è stato nessun investimento, capisci? Quindi è chiaro che prima o poi qua crolla tutto, cioè era inevitabile che gli bocciavano la cassa integrazione al ministero. Quindi noi siamo messi in questa condizione, però ci sono 119 famiglie sulla strada. Senti pronto. Giorgio, voi peraltro, insomma, come poi tu stavi anche raccontando, vi siete subito rimboccati le maniche e avete fatto e svolto diverse iniziative anche forti, con diversi blocchi stradali, insomma. Sì, abbiamo fatto tante iniziative in città, ci siamo conosciuti, finiamo sui solari locali un giorno sì, un giorno no, quindi adesso però mi fa piacere anche che veniamo sentiti anche qua. Portiamo la nostra immagine dappertutto, sai? E lo creiamo all'azienda un bel ritratto, comunque se la sono voluta loro, sono stati disonesti con noi, hanno firmato un accordo un anno fa, il 15 di maggio, che era una cassa integrazione straordinaria per 2 anni per investimenti, e dopo passato il primo anno e il secondo anno ci hanno dato il ben servito, ecco. Senti, che... praticamente anche così allargando il discorso alle altre vertenze che si sono affacciate con prepotenza negli ultimi tempi, insomma, sul fronte del lavoro, e quindi Alcoa, in questi giorni si parla molto di Fiat, ecco, all'orizzonte comunque si intravedono solo nubi nere da un certo punto di vista. Voi a quale soluzione, oltre chiaramente a quella innanzitutto di incrementare la lotta, ma in generale, insomma, quale soluzione pensate di potervi così aggrappare per cercare di salvare i posti di lavoro? Guarda, siamo aggrappati a tutti, forse solo Dio se lo può dire. Comunque il proprietà ci propone 2 anni di cassa integrazione per chiusura, noi la mobilità purtroppo ci sta dal 16 ottobre, i 75 giorni dell'avviso delle aperture delle procedure, però noi siamo convinti che dobbiamo fare fino alla fine, la nostra prospettiva è che noi vogliamo che loro perlomeno le concedano quelle procedure, dopo siamo pronti a sedersi a tavola a discutere di qualunque cosa, di qualunque cosa. Queste aziende, queste cose, questa proprietà deve smetterla, perché non può, decido, sembra che stia facendo un giochino o uno stabilimento all'anno e danno il ben servito a tutti. La casa madre Vicenza, siamo stati qua oggi, sono anche loro preoccupati, però alla fine sono ancora su una roccaforte. I colleghi di San Didero sono altamente preoccupati pure loro, quindi non... Le nostre lotte le vogliamo fare assieme anche ai colleghi degli altri siti. Faremo un incontro qua ad ottobre che abbiamo chiesto dall'Unione Industriale di Vicenza, di tutto il gruppo, e faremo una manifestazione massiccia. Mi auguro che questo appello lo lancio a San Didero, a San Giovanni Valdano, lo lancio anche alla stessa Vicenza, perché non si sa mai, insomma, è noi di Marghera, quindi sono iniziative importanti. E poi quello che sarà, te lo ripeto, solo Dio lo sa, perché capisci cosa certo, voglio dire, certo, no? Certo. Senti, allora siamo in chiusura, Giorgio, anzitutto vabbè, siamo perlomeno così contenti del fatto che la RSU si muova in modo abbastanza compatto e riesca a legare, insomma, così facendosi portavoce. Scusami, Pisano, posso aggiungere sì, come no, cosa? Come no, che per me è molto importante questa cosa qua. La RSU di tutti gli stabilimenti italiani, per me che io sono della FIMCISL, la RSU della FIOM, mi fa piacere che anche i COP sono con noi, però dobbiamo essere uniti, perché le bandiere in questo momento non contano niente. Ecco, dobbiamo essere uniti fra di noi, non guardiamo le bandiere, è una cosa che io voglio chiedere, cioè, lancio questo appello a tutti gli RSU, a tutti i colleghi, a tutti gli iscritti FIM, FIOM, COBAS, FUILM, tutte le organizzazioni sindacali, le bandiere in questo momento non c'entrano, dobbiamo restare uniti fra noi lavoratori, perché è l'unico modo per andare avanti. Beh, di fronte a questo appello, insomma, che noi non possiamo che sottoscrivere, ci salutiamo, Giorgio, e speriamo di risentirvi con magari notizie più così accettabili, visto che comunque immaginiamo, lo speriamo anche noi, dai. Ecco, con quale drammaticità state vivendo queste ore. Grazie, Giorgio, saluta Claudio che è lì con te, e a risentirci presto. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao.